mano su, ok? Ok. Il distretto è la mia crew, ok? Ok. Grida se ne vuoi di più, ok? Ok. Ci sono i duplici in play, quindi ovvio che ok. Lo spingiamo più in alto, ok? Ok. Siamo qui dentro al tuo impianto, ok? Ok. Siamo sopra un nuovo parco, ok? Ok. Ci sono i duplici in play, quindi ovvio che ok. Microphone check, check. Benvenuto, piacere. Io sono Paulito e questo mic è l'attrezzo del mio mestiere. Certo che so usarlo bene. Se l'avrei smesso prima avrei appeso il mic al chiodo e messo i dischi giù in cantina. Nulla sarà più come prima, duplici giù in prima linea. Scrivi il nostro cazzo di nome sopra la tua cartina. Di nuovo, dritto fuori dalla nebbia. Il tipico posto dove chi ci nasce poi ci invecchia. Io ho fatto gavetta, mosso passi senza freccia. Chiudevo rime prima di leccare figa o sigaretta. Ma ci espandiamo prendendoci nuovi spazi. Siamo la nuova Torino che dà fuoco ai vecchi scazzi. Non ci ammazzi, no, Alvi e Paoliti, oh. Veniamo al tuo party pure senza l'inviti, oh. Con me la sigla incisa sopra il mio micro. Lo stile sul micro, tu lo stile micro. Scopi go, copi mo, dai, messo male. L'importante non è fare, fare, ma originare. Oh, originare, la mia crew di fatti habla coi fatti, zero artisti artefatti, zero super show, qualche grandi, club eccitanti. Scantinette, impianti, marci, si suona ganci qui. Lo fai solamente se lo senti e se non lo senti calci sui denti. Le tue mani sono su, ok? Ok. Il distretto è la mia crew, ok? Ok. Grida se ne vuoi di più, ok? Ok. Ci sono i duplici in play, quindi ovvio che ok. Lo spingiamo più in alto, ok? Ok. Siamo qui dentro al tuo impianto, ok? Ok. Siamo sopra un nuovo marcio, ok? Ok. Ci sono i duplici in play, quindi ovvio che ok. Prendo vita, cresco dentro il tuo subwoofer. Ho barre perfette che le ascolti, poi brindi alla mia salute. Metriche volute che mi tengono la testa fuori da questa palude. Non sa discutere, parlate pure. Arriviamo da sotto, dove i campioni si tagliano, sì, ma con la scure. La solita piccola realtà di provincia di cui qualcuno parla solo per muovere la lingua. Fuori dai giochi, ma con un amore grande come ce ne sono pochi. Agli antipodi degli idioti, D-D-D-U-P. Anima, cuore, diaframma, infottati da anni d'oro pure negli anni del dramma. Passione che dilaga, non si riesce di fermare. L'amore che leggo negli occhi di una strofa prima di reparla. Microfono in fiamme, dopo ogni c'è quanto un nebbia nel retro. Fuma denso la mia crew. Fuma denso la mia crew. Fuma denso la mia crew. Le tue mani sono su, ok? Fuma denso la mia crew, ok? Fuma se ne vuoi di più, ok? Ci sono i duplici in play, quindi ovvio che ok. Ok. Ok. Ok. Sono su, ok? Ok. Il distretto è la mia crew, ok? Ok. Grida se ne vuoi di più, ok? Ok. Ci sono i duplici in play, quindi ovvio che ok. Lo spingiamo più in alto, ok? Ok. Siamo qui dentro al tuo impianto, ok? Ok. Siamo sopra un nuovo parco, ok? Ok. Ci sono i duplici in play, quindi ovvio che ok.